Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. Frankly, I think it's pathetic. Prescott City Councilman fired from his radio show tonight for calling this school mural pathetic and saying he doesn't understand why there's a black guy painted on the building. This is 3 TV News at 9. I'm Beverly. Allora, partiamo da qua per parlare di un tema, di un argomento che è destinato certamente dopo l'estate a infiammare l'altra parte dell'oceano, no? L'America che si avvia al voto di medio termine, ma che ho la sensazione che in mezzo alle instabilità anche invece dell'Unione Europea è destinato a sua volta ad assumere un ruolo sempre più importante. In sostanza parliamo di immigrazione e parliamo partendo da questa storia molto anni 10 che arriva direttamente dall'Arizona, che è lo stato che si è fatto pilota, no? Lo stato guida di una riforma repressiva nei confronti dell'immigrazione clandestina negli Stati Uniti d'America, e dove poi stanno succedendo una serie di storie che ne sono un po' la conseguenza, dall'esemplificazione, come quella per l'appunto di cui parlavano le voci con cui abbiamo aperto la puntata di oggi di Anni 10, che arrivano da Prescott, questo paesino sulle colline del centro, il cuore dell'Arizona, non la parte desertica ma la parte invece più abitata e agricola, dove si è scatenata una di quelle tipiche guerre culturali americane che nascono, no, da una piccola cosa, ma che poi riescono a intercettare l'attenzione di tutta la nazione, di tutto il paese, per come sono sintomo di qualcosa di assai più grande. Tutto ciò ruota attorno, pensate un po', a quel patetico, come è stato definito da uno dei protagonisti della nostra storia, un conduttore radiofonico, uno che fa più o meno questo mestiere, questo patetico murales che è stato dipinto sulla parete, la parete esterna di una scuola di Prescott, Arizona. Che cosa c'era su questo murales? C'erano le facce di tre bambini, due bambini bianchi e un bambino nero. Il signore in questione, che si chiama Steve Blair e fa il conduttore radiofonico d'assalto, quindi uno che spara a zero a caccia di pubblico, di attenzione, di contratti pubblicitari, di audience, ha definito patetico quel murales perché il bambino nero, pensate un po', era messo in mezzo tra i due bambini bianchi e quindi gli era stata assegnata una centralità di cui lui non si sentiva affatto soddisfatto, insomma, che la incarnava secondo lui quella contraddizione proprio, no, della morbidezza con cui gli americani per troppi anni hanno accettato di rapportarsi con la questione della immigrazione. Pensate un po' che pochi giorni dopo la sua uscita nei confronti di questo modesto episodio è successo qualcosa di forse ben più grave, ovvero il consiglio d'amministrazione della scuola ha deciso di chiedere al pittore che aveva dipinto quel murales di impallidire la figura, l'immagine, l'icona del bambino nero, cioè di farlo diventare un po' meno nero. E a quel punto naturalmente non si poteva fare una stupidaggine di una portata simile senza, no, provocare, oltre alla marcia indietro, normalmente non è stato sbiadito il bambino nero, ma sono arrivati i camion della televisione, le regie mobili, e si è cominciato a dire: che sta succedendo, quale malessere in questo momento sta colpendo il nostro paese. I was a candidate for president that day, and some may recall I argued that our country had reached a tipping point, that after years in which il nostro paese è arrivato al tipping point, siamo davanti a una svolta che va risolta con una idea, con una soluzione, ha detto Obama, pronunciando finalmente un importante, complessivo, ben riflettuto discorso sulla questione dell'immigrazione. Lo ha fatto l'American University lo ha fatto parlando essenzialmente di tre argomenti, anzi di tre responsabilità, come ha detto lui: la responsabilità del governo, la responsabilità delle imprese e la responsabilità dei singoli. Il governo deve vigilare, deve rendere più sicure le frontiere, ma deve anche gestire in modo ragionevole e intelligente il flusso già avvenuto e gli eventuali flussi invece in corso d'essere di immigrazione. Le imprese non devono assumere lavoratori clandestini, clandestini e i clandestini negli Stati Uniti d'America devono sanare la loro posizione. Questa è la proposta formulata da Obama, che sembra una proposta ragionevole, ma che in un certo senso sembra anche un tentativo di teorizzare su una questione dove invece, come in Arizona, ormai si sta andando sul pratico. Se è vero che l'SB 1070, la nuova legge di immigrazione in Arizona, permette alle autorità, ai poliziotti, in giro per il paese, di fermare coloro che vengono ritenuti sospetti di essere clandestini e di effettuare su di loro controlli approfonditi. Dove wrote a book called How that sort of fit perfectly into the platform of The World is Flat. Questo è Friedman, l'autore, no, della Terra è piatta, che sta parlando al Festival delle Idee di Aspen, in pratica la crema della crema dell'intelligenza americana che si raccoglie e discute su come va il paese. Perché connettiamo queste voci, la sua o quella per esempio di Zuckerman, no, l'intellettuale direttore di un gruppo di quotidiani newyorkesi, o di tanti altri famosi intervenuti a questo festival, con la questione della immigrazione? Perché per la prima volta, proprio da questa elite illuminata, è venuto a mancare nei confronti di Barack Obama, che nelle stesse ore provava ad accendere, a lanciare verso una certa direzione la questione dell'immigrazione, è venuto a mancare quel supporto che per almeno 3 o 4 anni ha segnato la sua ascesa politica. Si parla in un certo senso di un eccesso di teoria da parte di Obama in un paese che invece ha sempre portato avanti la cultura degli affari. E se si vede anche Barbara Streisand battere le mani, no, la passionaria di Barack Obama, battere le mani agli speaker che parlano di declino come nuova realtà degli Stati Uniti d'America e di pericolosa, no, deriva che porterebbe gli Stati Uniti d'America verso la condizione di vita, lo stile di vita dell'Unione Europea, si capisce che la battaglia che Barack Obama dovrà combattere per rendere l'America ancora simile all'America, ma possibilmente migliore dell'America di ieri, tenendo oltre all'economia proprio la questione dell'immigrazione al centro del suo programma, sarà una battaglia durissima. Anni 10. Parole. Un po' laconico, indolente, però anche molto poetico, è il suono dello spot, della pubblicità del Kindle, no? Una delle macchinette che stanno cambiando, no? Insieme all'iPad e a tante altre sorelline o fratellini, stanno cambiando, sembra proprio in modo irresistibile, il nostro rapporto con la lettura, ma non solo, il nostro rapporto con l'editoria, con gli oggetti, i libri, con il modo di leggere, lo stile di archiviare, con il fatto che una libreria non sarà più un muro di volumi presto, ma sarà semplicemente un affare tipo computer appoggiato da qualche parte. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché finalmente parlo di me stesso, ovvero mi rimetto in gioco in prima persona, insomma vi racconto che cosa mi è successo. Mi è successo che per la prima volta ho letto dall'inizio alla fine, dalla copertina alla quarta di copertina, un libro su un iPad, che è un po' come leggerlo su un Kindle, e vi voglio dire più o meno che cos'è sta storia, perché poi alla fin fine se ne parla molto, se ne teorizza molto, leggeremo il giornale e quant'altra, però io a un certo punto, per un motivo casuale, mi serviva di leggere un libro che non era ancora uscito in Italia, neanche nelle librerie internazionali. Allora l'ho comprato, l'ho scaricato e poi mi sono trovato davanti alla questione leggerlo, no? E me lo sono letto, un libro, un romanzo di non lungo, di 200 pagine, consumato in due sessioni di lettura, dopo aver accuratamente posizionato, e questa è stata forse una delle poche buone idee che ho avuto, il livello cromatico della carta su quello che viene classificato seppia, ma insomma un colore un po' polverino, non troppo bianco, che non affatichi l'occhio più di quanto si affatichi. Perché poi quello che vi voglio raccontare dopo questa esperienza, che assommerà alla fine, che ne so, 5 ore di lettura, 4-5 ore di lettura complessiva, è che non è tutto oro quello che luccica. Leggersi un libro, tanto più se vi serve o volete leggerlo perché vi piace o vi serve rapidamente venire a conoscenza di tutto quanto è scritto in quel libro nel giro di poche ore, non è una esperienza paragonabile dal punto di vista della fatica, del coinvolgimento, dello sforzo, a quella di leggere un libro, no, vecchio stile, non so come dire, in carta, inchiostro e copertine. Si fatica molto di più, e si fatica anche per motivi un po' strani. Per esempio, l'iPad pesa tanto, pesa più di un libro, e nelle mani dopo un po' non sai bene dove metterlo, se stai steso o seduto finisce te lo metti sulle ginocchia, ma se lo devi tenere in mano, come si faceva con i libri che si tenevano fondamentalmente in mano, è pesante, si sbilancia, e poi succedono tutta una serie di cose elettroniche un po' e digitali un po' in consulte, nel senso che appena lo sposti la pagina si sposta, gira tutto e cambia senso, le lettere si ingrandiscono e si impiccoliscono, e soprattutto si fatica tanto. La nostra cultura della lettura, per quella che è una semplice eredità, no, genetica, penso, non è tarata, non è pronta a fare tutto ciò. Forse la decima lettura i nostri occhi avranno trovato il modo di sopportare meglio tutto ciò, la nostra cervicale non comincerà a cigolare e magari la testa non ci girerà troppo. Però insomma, voglio dirvi che ne sono uscito un po' perplesso, anche se poi è veramente eccezionale, no? La mattina prendere, almeno finché sono gratis, poi prendere uno di questi attrezzi e leggersi il giornale nel vero formato giornale, ingrandendo, impicciolendo, sopportando qualche pubblicità. Per cui insomma, l'esperimento io l'ho consumato, le perplessità restano. Pare che il trend sia irresistibile. Un bellissimo articolo di New Republic parla dei pericoli del progresso, del cambiamento, ma parla anche dello spaesamento, no? Per esempio della mancanza del possesso dell'oggetto libro, della sua tangibilità come una delle cose che con tutto ciò arriva. Sono tutte piccole dati di fatto, dati di esperienza che stiamo accumulando, per quanto appunto sembra proprio che il progresso in questa direzione sia irresistibile. Yesterday, my friend says I was not a good son, you understand? I say, yes, I understand. He says, I did not go to see my parents very often, you know. And I say, yes, I know. Even when I was living in the same city, he says, maybe I would go there once a month or maybe even less. I say, oh yes. Allora, questa voce educata che sentite declamare in sottofondo è quella di un personaggio che ho scoperto, approfondito in questi ultimi giorni, ma con grande piacere, dopo essere venuto a conoscenza della notizia, che vi ribatto nel caso vi sia sfuggita, che costui, questo signore di quasi 83 anni, è il nuovo poeta laureato americano. In America si ha questa abitudine di nominare un poeta ufficiale, no, della nazione, a cui si dà poi un assegno di ricompensa, compiti in realtà molto, molto leggeri, molto sfuggenti, no? Si fare, probabilmente gli verrà commissionata qualche particolare ode a qualche situazione, evento o commemorazione, ma in realtà è soprattutto un omaggio al personaggio, e il personaggio in questione vale la pena di essere scoperto, approfondito. Si chiama W.S. Merwin, è stato soprattutto un attivista, un pacifista, soprattutto ai tempi del Vietnam, di importante rilevanza. Oggi vive al Hawaii, una vita molto appartata, si dedica a sostenere qualche causa ambientalista, ma non di più, ma soprattutto ha scritto parecchio, ha scritto molta poesia e molta poesia bella. Quella che ascoltavamo in sottofondo è una poesia che si chiama Yesterday, una delle sue più conosciute, di cui ora vi dirò qualcosa, ma vorrei aggiungere che la nomina di Merwin, che è poi un parente un po' alla lontana anche dei Beat, no? In un certo senso, è stata salutata con grande simpatia, con un compatto entusiasmo da tutto il mondo letterario americano, anche per la grande capacità di comunicare facilmente, in modo recepibile, di questo poeta. Io vi voglio leggere una traduzione che ho improvvisato di questa poesia che si chiama Yesterday, perché mi sembra che parli molto chiaro e ci spieghi anche un po' l'ispirazione di Merwin. Yesterday ovviamente vuol dire ieri, e dice: un mio amico dice, io non ero un bravo figlio, sai? Io dico che lo capisco. Poi dice, non andavo spesso a trovare i miei genitori, capisci? E io dico che so di che cosa stia parlando. Anche quando vivevo nella loro stessa città, mi dice, al massimo ci andavo una volta al mese o anche meno. E io gli dico, eh sì. Poi mi dice, l'ultima volta che ho visto mio padre, e allora anch'io mi metto a parlare dell'ultima volta che ho visto mio padre. Poi lui mi dice, l'ultima volta che ho visto mio padre mi ha chiesto della mia vita, di come stava andando. Poi è andato nell'altra stanza per prendere qualcosa da darmi. E io gli ho detto, oh, e a quel punto ho risentito le mani gelide di mio padre, l'ultima volta che le ho toccate. Lui invece mi dice, mio padre si è girato mentre era in corridoio e mi ha visto che guardavo l'orologio. Allora mi ha detto, mi piacerebbe stare qui a parlare con te. Sì, ho detto io. Ma se sei occupato, ha detto, non voglio che ti senta in obbligo solo perché sono qua. Io non ho detto niente. E lui mi dice, mio padre ha detto, forse hai cose più importanti da fare, forse devi vedere qualcuno, non voglio trattenerti. E io ho guardato fuori dalla finestra, il mio amico è più vecchio di me, e mi dice, ho detto a mio padre che era proprio così, allora mi sono alzato e l'ho lasciato, capisci? E l'ho lasciato per quanto non ci fosse alcun posto dove dovessi andare e in realtà non avessi niente da fare. Obama carried the independents quite handily in the last election, and now they're running away from him. So the number of Americans who think the Democratic Party is too liberal has gone up by 20%. Allora, vi abbiamo parlato di Merwin, poeta laureato, 17° poeta laureato d'America, di cui vi invitiamo magari a seguire un po' le tracce, a fare una ricerca, perché è una voce poetica così interessante, così tersa, così comprensibile da attrarre davvero l'attenzione. Vogliamo parlarvi anche di un giornalista che più o meno negli stessi termini fa questo mestiere. Si chiama David Brooks, l'avete sentito citare nei programmi di cui mi occupo io qualche centinaio di volte, perché resta inevitabilmente uno degli editorialisti di riferimento non solo del New York Times ma dell'intero giornalismo americano. A lui è dedicata, e questa è la segnalazione che voglio fare, una lunga, approfondita, appassionata, sincera ma anche netta critica cover story dall'eccellente settimanale che si chiama New York Magazine, non il New York ma il New York Magazine. Il titolo è il più giusto, il più tarato possibile, un uomo ragionevole, e si parla dello stile di David Brooks e dell'approccio che ne fa una specie di partito a sé stante, no? Partito fatto da un uomo solo, ovvero lui, perché è l'ultimo, è a tutti gli effetti l'ultimo dei moderati, quindi perciò controcorrente nell'informazione americana, no? In un certo senso un solitario, una voce della ragione. Lui stesso si definisce un conservatore moderato. Lui è quello che scrisse tra l'altro quel bel libro sui boss, no? sui bohemien dentro il sistema, non fuori dal sistema, quelli che pur lavorando mantenevano delle ambizioni letterarie. Leggete questa intervista per capire cosa c'è dietro, probabilmente la voce più autorevole, più interessante e soprattutto più ragionevole, appunto, dell'editorialismo americano di questo momento. David Brooks. Voglio un giorno nuovo, vivo, per non rinchiudermi. Profumi mi accarezzano, rimani accanto a me. Giorno dopo giorno riacquistando coscienza. senza il corpo non mente, giorno dopo giorno pagherò un alto prezzo se non sarai più qui. Anni 10. Suoni. Hey man, when the last time you went teabagging? Must be tea time. Treat it like a perm, leave it be and let it burn. Eat them like an orange, orange. So when they on the verge of leaving, it don't get boring. Foreign trips are taken just to see your smiley faces. Times are wasting and I don't like to waste no time. You can be down. Be still young heart. Bene, bene, questo è uno dei, beh, dei dischi veramente da calda estate, anche italiana, per quanto arrivi, arrivi da lontano, ma quale suono, no? Meglio va d'accordo con giri in macchina, le vacanze, i viaggi, le serate lunghe e quant'altro. Lui si chiama Big Boy, Boy però scritto con la I normale, perché qui siamo nel naturalmente dintorni dell'hip hop e quindi anche della distorsione, no? del cambiamento linguistico. Big Boy è un signore molto conosciuto nella scena pop internazionale, perché è il 50% insieme a André 2000, no, degli Outkast, ed è l'incarnazione delle incarnazioni migliori, diciamo così, di questo Southern hip hop, di questo hip hop degli stati del sud, che in questo momento sta avendo la prevalenza, in un certo senso è quello più significativo, più dinamico, del suono nero, rap oriented, negli Stati Uniti. Il disco è stato accolto in modo a dir poco trionfale dalla critica, sono uscite recensioni da 4 stelle e mezza, insomma da 90% di valutazioni, contiene partecipazioni che sarebbe, ci vorrebbe una puntata speciale di anni 10 da elencare. Molto divertente che molte delle partecipazioni siano vecchie glorie ripescate, no? Lo snobismo della sciccheria di non chiamare necessariamente Rihanna a cantare, ma invece vecchi rapper un po' dimenticati, Too Short, no? Nomi che appartengono al nostro passato. L'album si chiama Sir Lucius Left Foot, il piede sinistro del signor Lucio, che pare essere uno dei nomignoli di Big Boy. Il suo vero nome è Antoine Patton. Non c'è nel disco André 2000, perché la casa discografica ha detto no, non se ne parla, voi dischi insieme sotto mentite spoglie non li fate, se li fate da soli arrangiatevi, ma insomma nella fattispecie Big Boy si è arrangiato benissimo. Ne abbiamo già ascoltate un po' di piccoli segmenti in questa puntata di Anni 10. Ne ascoltiamo ancora. Questa si chiama For Your Sorrows, Big Boy. Best full of your girlfriend's hair. Yes, she'll blow one tonight. For your sorrows. And that's back on the scene. When it's shot 2 or 3 movies, but everything's great like 9:15. It's back to the time machine, I believe. Back to the rhyming, back to the spit. Back to them high hats, kick, slam. Y'all nigga dare to think that was it? We everywhere. Like the air you breathe. Got up stuck like Chuck in the web we weave. Like a lace front wig stuck to the forehead. Best believe I'll change the steeds. Take the lead, change the speed. Slow it down just for the sport. Nigga, one of my favorite rappers happens to be too short. Questo è il virtuosismo rap, anche tecnicamente molto, molto bravo, Big Boy. E invece passiamo a musica bianca, musica newyorkese, per annunciarvi che il nostro molto venerato e adorato Lulu alias Lou Reed l'ha rifatto. L'ha rifatto, ovvero insieme alla sua consorte, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, no? Laurie Anderson, titolare di un ottimo nuovo album appena uscito, e insieme a John Zorn, chitarrista sperimentatore to court, della scena newyorkese, Lou Reed è andato a fare in giro concerti appunto in trio, nel formato che lui ha soprannominato metal experimental music, delle paure, delle notti senza paura di musica non rock, è il sottotitolo di questi suoi concerti, quando va insieme a questa metal machine music in giro per teatri a fare pura sperimentazione, pura improvvisazione, totalmente rumoristica, niente voci, niente Sui Jane, niente Walk on the Wild Side, e alla fine, dopo mezz'ora, una marea di fischi. Infatti ci ha riprovato al festival, peraltro in una location nobile, insomma il Montreal International Jazz Festival, ed è stato letteralmente cacciato via dal palco a fischi, perché il pubblico aveva pagato biglietti, tra l'altro costosi, $100 a biglietto per entrare a vedere Lou Reed. Si voleva sedere lì e sentirsi le sue belle vecchie canzoni, invece si è beccato quattro tranche, no? Quattro suite improvvisate di questa roba qui, e non ha sentito ragione. Fischi a tutto spiano, Lou Reed cacciato, incavolato, ovviamente è finita poi a male parole, quello che uno si incavola tantissimo, potete immaginarvi, ma loro in fondo volevano soltanto questo. Ma insomma, caro Lou Reed, ti scrivo una letterina, come si dice. Loro volevano solo questo, no? Volevano che tu ti mettevi lì e facevi Berlin e tutti gli altri tuoi successi, ormai da veteranissimo, amatissimo, no? Adorato della musica. Questa cosa della metal machine music non è mai piaciuta a nessuno, ci duole dirtelo. Siamo tra coloro che sono convinti che tu sia un pessimo chitarrista, ma che importa, tu sei Lou Reed, quindi in quanto tale, insomma. Ti invitiamo semplicemente a pensarci bene, a farlo in club molto piccoli queste seratine a tre, perché a cambiar strada, soprattutto quando si è, no, dei monumenti viventi, si corre qualche piccolo rischio, anche se siamo convinti, caro Lou Reed, che tu questi rischi li corra ben sapendo, no, cosa vai incontro. È una provocazione anche questo. Di provocazioni è stato a lungo protagonista, forse inconsapevolmente, forse sulla forza soltanto del proprio slancio, della propria voglia di vivere, di essere artista a modo suo, anche un cantante italiano, poi diventato piuttosto famosuccio, direi, tale Celentano Adriano, no? 6 gennaio 1938, la sua data di nascita, ormai un signore, che di tanto in tanto ancora illumina la comunicazione italiana con la sua stravaganza, il suo modo indipendente di pensare, e perfino con qualche bella canzone, ma che agli inizi era qualcosa di completamente diverso. Era uno dei sperimentali, possiamo usarla questa parola, degli sperimentatori del rock and roll all'italiana in quel dopoguerra, boom, pre-boom, di cui è stato tra i protagonisti. C'è un disco in circolazione molto divertente, si chiama Rock and Roll Volume 1. Adriano Celentano canta gli hits e le sue versioni degli hits del rock and roll. Ve lo faccio sentire solo per assaporarlo, come la faceva, zoppicante ma molto volonterosa, Blueberry Hill, Adriano Celentano. Double your steel on Blueberry Hill, still linger hard to my dreams can't turn. Anni 10. Figure. This is Max Headroom, and what you're about to witness is one of the greatest epics ever produced in the history of television. I'm afraid our star reporter is going to have to disappear. Permanently. Where does all this come from, Bryce? The components of Carter's mind. But he's adding to it. Questo era il prologo con cui si cercava di spiegare così agli improvvidi, ingenui telespettatori del 1987 che diavolo fosse Max Headroom, trasmissione televisiva rivoluzionaria all'epoca, no? nel momento così dell'exploit di MTV e di un ripensamento in atto proprio in quel periodo sulla televisione come tecnologia, come forma di spettacolo, come forma di intrattenimento e anche come forma di innovazione. Che diavolo era Max Headroom? Dovete essere insomma grandicelli per saperlo, dovevate avere nell'87 già 15-18 anni. Era un presentatore digitale, un presentatore virtuale, era un tipo anche piuttosto brutto, insomma, cioè un po' spaventoso, ma un po' un culturista, no? Con questo taglio di capelli biondi pettinati all'indietro, il cravattone, il vezzo di gridare quando un po' troppo, di urlare un po' troppo, come poi avrebbero fatto peraltro tanti conduttori televisivi, e poi questo controllo un po' approssimativo della sua vocalità, perché la storia che si era inventata è che Max Headroom era un presentatore virtuale in quanto una specie di incarnazione fantasmatica di un vero giornalista morto in un incidente d'auto, che si chiamava Matt Frewer, si chiamava questo personaggio, nessuno ha mai visto perché era prologo invece di Max Headroom, che poi alla fine lanciava dei video più che altro, aveva un suo programma, no? Questo Max Headroom era in realtà un programma di cui, pensate un po', se ne parlò ma tantissimo, 23 anni fa, questa fu veramente per alcuni mesi la notizia mediatica del mondo dei media più divertente, più discussa, più innovativa, più rivoluzionaria. Poi alla fine di tutto ciò andarono in onda soltanto 14 episodi, si videro anche dalle parti nostre, e poi sparì, perché il programma poi alla fine era brutto, anche perché questo presentatore virtuale, questo Max, diceva cose assolutamente non interessanti, e poi alla fine presentava dei video, dei servizietti, era la teoria dietro al tutto, no? Più divertente della pratica, poi del programma in se stesso. La notizia è che Max Headroom è tornato sotto forma di DVD, c'è un cofanetto in cui le 14, no, puntate di Max Headroom sono addirittura assemblate in 5 DVD, che è sicuramente un surplus di materia digitale per ospitarlo, però dentro ci sono, naturalmente, anche per giustificare un prezzo piuttosto salato, ci sono tutta una serie di rarità, di puntate mai andate in onda, di outtakes, di interviste e di interventi, ma per capire in un certo senso, per rivivere o anche per un po' riassaporare, con tutto anche il gusto del kitsch che c'era, questa alba della televisione, della seconda repubblica televisiva, secondo me un passaggio davanti a Max Headroom è piuttosto indispensabile. The death of William Burroughs. William died on August 2nd, 1997, Saturday, at 6:30 in the afternoon. Oggi ci ha presa così, e non faremo altro che sentire vecchi poeti americani che declamano, perché ci sembra riposante, ci sembra anche un modo un po' diverso di stare a sentire anziché rincorrerci con le parole. Questo, nella fattispecie, è un altro poeta come Merwin, non popolarissimo, piuttosto conosciuto soprattutto per chi ha frequentato la scena, ha letto la scena beat americana, si chiama John Giorno, ed era l'ospite, colui che teneva, si occupava di tenere in ordine, per modo di dire, tutto ciò che avveniva al 222 della Bowery, che era un indirizzo mitico della Big Generation e dintorni, almeno quanto, non so, il Chelsea Hotel o il Beat Hotel di Parigi. A New York, a quell'indirizzo, al 222, passavano tutti, abitava peraltro, tanto per dirne uno, abitava William Burroughs, abitava, pensate, nel sottoscala, nel famoso bunker, no? un posto senza finestre, metà tempio buddista e metà luogo di sperimentazione allucinogena, e poi passavano tutti, no? Ginsberg, piuttosto che Ferlinghetti, artisti, c'era Rothko, da quelle parti erano passati famosi pittori come Brooks, Chamberlain e quant'altri. C'è una mostra traversata la strada, al New Museum, che è un posto molto nuovo, molto alla moda, forse anche un po' troppo alla moda della scena artistica di New York, ma sono figure che vale la pena di andare a vedere. La mostra si chiama Brian Gissin Dream Machine. Brian Gissin era il fidanzato di John Giorno, che abbiamo ascoltato poco fa, ed era anche l'artista, era anche l'inventore, diciamo così, del gruppo dei Beat. Era quello, per esempio, che si era inventato la tecnica del cut-up, no? Tagliare parole da testi presi da giornali, da pezzi di carta, mescolarle tutte insieme e vedere che cosa ne usciva fuori. Una tecnica che poi è stata utilizzata spesso da Burroughs. E questa mostra, in un certo senso, racconta, rispecchia quello che succedeva, che quello si muoveva, emozioni, arti, prodotti e cultura che succedeva dall'altra parte della strada, al 222 della Bowery, quindi al New Museum Brian Gissin Dream Machine. Il John Giorno che ascoltavate poco fa, invece, ve lo segnalo, lo trovate su YouTube, è un gruppo di video particolarmente curati da un autore italiano che si chiama Antonello Faretta, ed è John Giorno che interpreta alcune sue poesie in bianco e nero, girato in bianco e nero in scenari italiani, e lo fa con grande intensità, da uomo rispettabile un po' appartato, quale egli è sempre stato. Michael Phelps, the Olympic champion, eats in a day when he's training for a race. Joey Chestnut just did it in about, I don't know, 6-7 minutes. Phelps is nothing compared to this man in calories. Good report time. 3 minutes to go. Vabbè, è il destino, no? Salire e scendere, alto e basso. Insomma, eravamo saliti un pochino, due gradini un po' più in alto con John Giorno, adesso ripiombiamo inevitabilmente, perché questi poi sono gli anni 10 in basso, anzi in bassissimo, però andiamo in un posto, almeno con la fantasia, che ci piace molto, ovvero il lungomare di Coney Island. L'avete visto mille volte nei film, quello con la ruota, no? Quello di Higgard Game, no? Il film di Spike Lee sul basket, quello dove c'è Nathan, che è il più famoso ristorante, per modo di dire, insomma, chiosco di hot dog del mondo. Si sa che con meno di un dollaro si può sempre mangiare un hot dog da Nathan, e sono buonissimi, o almeno la leggenda dice così, a me sembrano uguali agli altri, ma comunque invece sono buonissimi. E lì si svolge il campionato mondiale di mangiatori di hot dog, che è un affare lercissimo, di gente che in 10 minuti deve ingoiare più hot dog possibili. Lo ha rivinto il campione ormai da diversi anni, che si chiama Joey Chestnut, ma lo ha rivinto con grande rabbia dell'ex campione, che si chiama Takeru Kobayashi, che si è talmente incavolato di non essere stato ammesso alla prova in quanto legato contrattualmente ad altri campionati mondiali di mangiatori di hot dog, pensate che cosa di orribile vi stiamo parlando, che è stato poi arrestato perché voleva salire sul palco e dire no, il più bravo sono io, non è Chestnut, sono io ne mangio di più. Di fatto Kobayashi è riuscito a mangiarne, mi sembra, 66 o 68 in quei 10 minuti. Su YouTube vasta documentazione dell'evento, se avete lo stomaco forte. Se invece volete interessarvi al personaggio di Kobayashi, vi dirò che lui non è più campione mondiale, ahimè, di mangiatori di hot dog, ma detiene diversi altri titoli mondiali, perché dovete sapere che esiste la MLE, che sarebbe la Lega degli Sport dei Mangiatori, adesso ve la traduco così, insomma, Major League Eating, e lui è campione mondiale di mangiatori di cervelli di cervello di mucca, mangiatore di involtini di aragosta, ne mangia 41 in 15 minuti per la cronaca, e anche di palle di riso, è capace di ingoiarne 10 kg in 30 minuti, e poi dice che campano poco. La felicità porta un gettone per i ragazzi del jukebox. La gioventù, la compra per 50 lire e nulla più. In un gettone c'è l'ossessione del Kobayashi. Esce, pagheranno per lui una cauzione, uscirà dopo un paio di notti al fresco Kobayashi, per aver dato un po' in escandescenza davanti alla perdita della corona del mangiatore di hot dog. Questa è l'America, diciamo, nella sua versione visuale un pochino più andante. Io invece sono Stefano Pistolini, regia c'è Valerio Rocchetti, redazione Gloria Guerrera. Questo è Anni 10, che ha un profilo Facebook che si chiama Anni 10 Radio 24 o semplicemente Anni 10, ha una mail anni10@radio24.it per risalire ai vari prodotti, tantissimi di cui abbiamo parlato oggi, no? Almeno due poeti, pensate un po', un record, due poeti in una trasmissione. Ci sentiamo tra una settimana, il nostro augurio è di stare tutti bene.